nome della figlia è Sandra di Mugnone. Il nome del padrone. Il servo lo dirà. E conte del barone. E principe e marchese. Un'ora si vedrà. Che si fa?